Luca. Luca. Luca. Luca. Luca. Mi senti? Ciao Mari. Ma evidentemente non mi senti. Già ti sento io. Aspetta, Adesso mi senti? Eia. Ma io non ti sento, questo è il fatto. Che tu senti a me, ma io a te non ti sento. Guarda a vedere, mi senti? Mi senti? Mi senti? Eia, io già ti sento. Allora, basta, sto in pricchia. Ma insomma, che pesce sì. Guarda se mi senti, come mi senti con questo? Benissimo, ti sento benissimo. Uno di quelli è. Aspetta che provo con l'altro. Prova con l'altro a vedere, dai. Guarda, con quest'altro? È la stessa cosa, come ti sento col primo, ti sento anche con questo. Allora già vanno bene, dai. Già vanno bene. Ma già vanno bene, dai. Vanno bene, però ti sento con un po' di scarichi, No, forse era l'altro che stava facendo contatto. Ti porti appresso delle scariche. Guarda con questo, forse c'è la batteria a mezzo scarica, Anche quello può essere, perché arrivi con delle scariche. E io bene sto arrivando. Sì, senza scariche. Va bene, Giovanni, se senti a Bacchigio diglielo, che sono pronti. D'accordo, allora lui, già è acceso qua, ok? E a dopo, Gianmarì. Senti, prova. Se stai avanti... Okay. Parti, ci spostiamo a sinistra per andare dritto. Ok, togli la freccia, vado avanti. Alla prossima andiamo a sinistra. Teniamo già la destra a sinistra, rimane in questa corsia, è l'unica autostrada dove è meglio stare interno per andare a sinistra. Si è molto trafficata, un po' pericolosa stare interno. Quindi rimaniamo bene a sinistra, segnaliamo a sinistra, no? Per carica, freccia, ora segnaliamo. Freccia a sinistra. Ok, sta interno, interno. Freccia a destra. Quando esci la freccia, ok? Quindi mi raccomando, tieni la destra, il più possibile. Soltiamo a sinistra, ci canalizziamo per la motorizzazione. Subito la freccia, non ti chiedo un'indicazione. Freccia a sinistra, senti? Prova, mi senti? Mi senti? Mi senti? Vai. Ora a destra, così. Hai che tratteggiato. Spostati. E all'incrocio svoltiamo a destra. Freccia. Ok, via. Tieni la destra. Vai. Tieni la destra, non svoltiamo. Tieni la destra. Ricordi che le indicazioni te le do con anticipo anche all'esame, te le danno sufficiente anticipo. Dritti, tenere la destra non significa svoltare a destra, ok? Tenere la destra significa stare più vicino al margine destro della carreggiata, esatto. Adesso svoltiamo a destra la rotatoria, adesso ci vuole la freccia. Prima uscita a destra, mi senti? Mi senti? Ok. Quindi prima nel ponte svoltiamo a sinistra. C'è proprio una canalizzazione dopo un'isola di traffico. Attenzione che qui stiamo superando. Guarda gli specchietti. Gira anche magari. Guarda gli specchietti. Guardalo. Spostati a sinistra, spostati a sinistra. Guarda lo specchietto. Si canalizzi, dai la precedenza di fronte. Nel tratteggio, fermati ai triangolini, fermati. Troppo. Arriva un veicolo e devi dare la precedenza. Quando esci invece, adesso che siamo qua, aspetta. Vabbè, torna indietro. Quando invece esci da qua, dalla stop, vedi? girati, ok. Quando devi andare a sinistra, ti devi canalizzare in questa corsia centrale, cercando di non tagliare questa linea che è alla tua destra, ok? Se ti devi canalizzare, arrivare fino all'altra isola e poi dare la precedenza e uscire. Quando invece entri nella motorizzazione, tu devi andare nella corsia più a destra, dove c'è la macchina parcheggiata, eh? Ok? Lì che devi infilarti, così, da qua, dai la precedenza di fronte, vedi che non c'è nessuno, arrivi. Quando ci sono veicoli devi aspettare, più o meno i triangolini, e deve essere sempre tratteggiato come siamo noi. Ok? Quindi adesso svoltiamo a sinistra, e passiamo a fianco con la macchina parcheggiata, come che dobbiamo entrare in motorizzazione. Quindi qua li metterai la freccia prima del passaggio a livello per svoltare a sinistra, no? Quindi freccia, a sinistra, no? A sinistra. Ok, dobbiamo andare a sinistra, no? Andiamo a sinistra e dobbiamo entrare nel cancello che adesso è chiuso, quello più piccolo, esatto, quello che hai di fronte. All'esame entrai da lì. Adesso ci facciamo un'inversione di marcia. Quindi ti devi fermare la freccia a destra, perché stai iniziando una manovra, no? E ti fermi, cioè freccia e poi ti fermi, ok? Poi adesso freccia a sinistra, gira la testa, il casco verso di me, gira bene la testa, guarda qua se arrivano veicoli, adesso finisce la manovra di inversione, dai, così, se non fai questo movimento è un casino perché non hai visuale, ah, ti puoi anche stare sulla destra qua, tanto da lì entriamo e basta. Per uscire usciamo dal cancello, da dentro il piazzale, ah, dove sono io più o meno, visto? Per uscire usciamo da là, da quel cancello. Dai, stai avanti da me. E ti metti davanti al cancello principale. Va bene, anche se sei di giorno non fai niente. Vai, vai, non fai niente. Solo oggi. Ok. Quindi vedi queste due ferme, queste due canalizzazioni, no? Una che va a destra. E quindi c'è la corsia di accelerazione e una che va a sinistra e ti devi fermare allo stop dove c'è il tombino, la linea d'arresto. Ok? Per svoltare a sinistra, dai la precedenza a chi arriva alla sinistra e quelli che si canalizzano come ci siamo canalizzati noi poco fa, per girare in motorizzazione. Quelli che vanno dritti come questa macchina grigia, gliela dai dopo la precedenza, perché tu ti devi canalizzare al centro. Hai capito? Lo dobbiamo provare? Ci siamo? Ok. Allora andiamo a destra. Mi raccomando, rispecchietti e gira la testa. Bravo così, dai, deciso quando giri la testa, veloce, veloce. Il limite in città è 50, il limite, quindi ci siamo dentro abbastanza, dai. In generale 50. Quindi dai, va bene. Quindi passaggio a livello, se la lanterna è rossa ci dobbiamo fermare e dare la precedenza, fermarci e spegnere il veicolo in teoria. Ok, quindi la lanterna è spenta, possiamo andare, le barriere sono alte, ricordi che è un rosso per il semaforo, anche se le barriere sono alte e il semaforo è rosso, fermati, ok? Adesso rotatori, andiamo a destra e torniamo in autoscuola, quindi prima uscita, attenzione a questo scemo, va bene, va bene, va bene, va bene, sempre fino adesso, mantieni da destra, precedenza ai pedoni, anche se non sono italiani, bisogna dare la precedenza, sì. Anche i fronte hanno la precedenza, Bacchi? Yeah. Dove sei, Bacchi? Bacchisio sono. Dove? Sono Bacchisio. Sì, ho chiesto dove sei. A casa, sto vedendo sotto casa tua. Dai, ci troviamo al portone. Ti chiamo quando arrivo. Eia. E chiama a me pure, Bacchi. Dimmi. Buonasera. Rientrando, sa. Buonasera, siamo di un saluto a tuo nonno. Ah, dice che sono pronti. Ce l'abbiamo provato. L'abbiamo provati e va bene, solo che se metti un'altra antenna serra non ti funziona, come non funziona anche il mio, perché io ce l'ho preciso. Beh, se metto un'altra antenna non funziona. Io adesso vediamo un po'. E infatti vai così, e ecco, ne abbiamo preso tre noi, uno Giulio, uno Luca e uno io. Abbiamo provato con le antenne serra, niente a fare. Pure già me l'antenna mia, con un'altra antenna gommino, niente a fare, non va bene. Con l'antenna serra non va. No, non va, no, non va assolutamente. Pure Marino non usa. E gli altro dice Luca stesso, dai. Perché abbiamo fatto le prove con Giulio. Non vanno, no. Non lo so. Marino mi ha detto che lo usa, l'ho attaccato in antenna esterna. Preciso a quello lì? Sì, è uguale a quello lì, insomma. Allora se funziona quello di Marino funziona anche il nostro, ma noi l'abbiamo provato. Via, te lo dirà Luca stesso. Adesso vediamo un po'. Luca, sono arrivato. Bacchisio. Abbassa le bumacci. Gianmari. Sta bello. Ero giù che stavo dando qualcosa a Bacchisio. Era ben grande. Tu ce l'hai mangiato il cinghiale. E poi la cena l'ho fatto con i piselli. Veramente eccezionale. Pucci cosa avea? Quando non finne. Catta, non so che io se mangio il cinghiale a cacciare un filato. Buono, anche arrosto, cotto al punto giusto, era perfetto. Mangio pure, ma non è che le fa la pazzo, però per dire no. Per dire no. Quindi so che dici, non li mangiali. Io già lo mangio magari, però non è che vado pazzo, capito? Certo, non è una carne alla quale siamo abituati, giustamente. Comunque, arrosto, se è tenero, se è roba tenera, va benissimo, cazzo. Allora è buonissimo, capito? Ma se adulto di quei vecchi, cazzo, di voravarla a masticarlo. No, senz'altro questa è roba piccola perché sono tenerissima. Infatti a giudizio vedo che è tenero così, fatto in agrodolce e con i piselli, così ho detto, ci provo a farla arrosto. E ti dico, guarda, ci sfilacciava benissimo, guarda. Veramente, tenero. Vuol dire una roba piccola, capito? Ecco perché magari riesci a masticarlo bene, anzi, quando è piccolo già si può mangiare benissimo, anche arrosto, catta, lo gridi. Però fatto come lo stavi dicendo tu, è più buono ancora. Ma se ne butti un pisello in mezzo. C'è una spina in fondo al mare. Ciao Giovanni. Poi ciao Lu, buonasera. Non feri oggi, in giro. Ai paramo Giovanni, ai paramo. E ha detto sempre a Luca che fa che dammi una mano per farlo, ma ha detto che non ha gana. Se no ci si gonfia, si abbassa di voi fare questi bocca. Isso, mi ha deciso a mangiarlo, a cercare l'ofanda. Ecco ma cosa è crescente la bancia. Allora mi ha mandato il cinghiale così niente e mangiare la faccia mia, capito? Allora dimmi tu, cazzo, non so, per andare a cercare il paro o l'ofanda. Già, ero convinto che ne fa se ne ognao, capito, non si bigia. Ehi, ma la si convince che si è stato fatto in mente a noi, Elu. Che arrivi negli anni fatto. Elu. Per carità, capito? A pezzo a pezzo se la bagnetti, piano piano. Tra la mia su un pezzo di 2 centimetri è stato mezz'ora, a bisogno non riusciamo a cambiarsi il gallo. Ui, era... brodo era, guarda. Noi ce l'abbiamo un pezzo, ma... Non è facile, capito? Cucinarlo, ma dato che lo bollisciano dal cane. Ehi, io l'avrò. E avrò 2 o 3 chili, il boffetto. Però, i suvi dura, eh. Ma che noi abbiamo un pezzo grande, ce l'hanno regalato, così di farina, però, guardate che lo bollisciano dal cane. Ah, perché anche bollito si può fare. E mica un cane bruto e crudo. Lu. Ah, il cane, John Marie, per darlo al cane lo deve bollire, capito? Ah, sì, ho capito male allora. Ah, io ho fatto sia in agrodolce, sia con i piselli ed era tenero stesso. Per quello poi ho provato a farlo arrosto perché, agito, se è tenero così, infatti anche arrosto era tenerissimo. Ma gli altri si è farato, gli altri? Guarda, buonissimo, eccezionale. Ah, è te di lui. Sì, già intendo, sì. Io gli appaccare il daga. Vivo più a girare all'intorno che a brincarlo, agisci. Non mangio e basuno. Bah. Devo dire che io mangio un'altra cosa. Oh, già lo mangio ogni tanto, ma ogni moccia di babba però. Ce l'abbiamo, ma lo vorrei così la domenica, ce lo rifanno. Oh, caccia. Sei tu che rimagna, ma curi cani. Se è duro è un conto, John Mario, vuol dire che è adulto, è vecchio, capito? Vuol dire che ve l'hanno dato così, a me me l'hanno dato tenero, capito? Tenero. Se non mi credi, guarda, te ne do un pezzo e te lo fai, poi mi dai la risposta. E se no te l'avevi detto che era adulto, anzi, se l'avevi già lampato da un bel. No, ma è fatto col sughetto per la pasta asciutta, mi piace molto. Pezzo di polpa tagliato a pezzettini, fatto il sugo, così lo mangio ben volentieri. Come si fa l'agnello e poi ci fa gli gnocchetti col sugo, certo. Così, ma grazie, così già lo mangio. Però alla cacciatora non sembra che l'ho mangiato un paio di volte e non mandava. Ah, ma tu dici con le olive così, no? Io in agrodolce e con i piselli lo stesso è favoloso. Vedimi, se è tenero è favoloso, se te l'hanno dato duro, cosa fa? Ho appena preso la pressione. Ehi, ho ce l'ha regato un pezzo coso. Come si chiama? Il suo boccio d'oro, il tragitto che c'ha tutte cazzate lì, cazzo, non fa così rado, tutto come te la palla, chissà quanti anni va via, mio va via 20 anni che si mette il cinghiale. E puoi immaginare, e quando è così l'unico è farlo in pentola a pressione, secondo me, Gian Mario. Lo fai in pentola a pressione e dopo lo fai come vuoi, però almeno già con la pentola a pressione per forza lo ammorbidisce. Tutta sì, si è aburrito, proprio fa così là e lo fa così a dire il macco. Che lo riesci a farmelo così là, boh. No, così, la moglie di Torre, lei sa già fare. Lei lo sa fare perché lo fa molto spesso, per cui noi quando lo mangiamo perché ce lo portano loro. Sennò, allora prova a dargli un pezzo del tuo a vedere se lo fa, cioè, anche se lo sa fare, però è duro, magari ti dici, la sassà, così se lo rampi, non ti grudeni in un pozzetto. una di gente che ha un pezzo, però a boipa. E forse la bacia asciutta, che si sto qui tranquillo, qui lo mangio. Sempre in cusineggia però, e anche se toscio, si rappo tutto. Quando mai, va, forse c'era un bozzetto, non ti sei intenerito un poco. Ma non lo so se era giovane questo, se l'ha portato la persona che tu sai, capito? perché loro sono in mezzo a queste cose, capito? E sicuramente era burro invalido il suo cinghiale. Beh, vabbè. Luca! Io rimango in ascolto perché me ne sto levando una spina. Stamattina ho aggiudito, mi rivara che c'era una pietra, un muletto a secco. Me ne scendevo questo qua sul piede o ci devo mettere la mano sui ruffi. Sono stato costretto e ho una spina dentro in fondo e mi sta facendo male. Ho scavato con l'ago ma non ne voglio uscire. Basta tagliare di te tutto e riusci subito. No, hai già tagliato giù, Gio Marino. Ma chi zio? Dice con la telecella cosa Marino sta uscendo. Non lasciarlo questa parecchia che c'è con la telecella lì. Se mi fai qualche modifica magari sì, ma se no io ho letto anche dei forum su internet che dici manco a Ruccio con la telecella andare. Capito? E infatti l'abbiamo provato anche noi, ed è così. Solo mi sta leggendo Battisio che c'è qualche modifica, si può fare una modifica, ma non mi vale la pena. Ma infatti io, ci ha comprato un'antenna appena più lunga della sua originale, no? Sarà 3-4 centimetri più lunga. Nemmeno con quella funzionava, si può immaginare. Con l'antenna serra, non l'ho provato io l'antenna serra, però so che non funziona, perché Giulia ha provato e non funzionava. Ma infatti a me la conferma me l'hanno data su internet, chi l'ha provato prima di noi. Vabbè, mi aspetto 5 minuti, Gio Marino. È già acceso. Allora, Graziano è ancora in vacanza. Ti ringrazio, i ribussi. Certo, Frantumenti dici che vi dico, no, te l'ha fatto. Verso le 7, le 6 meno 20. E dice che sta migliorando poco a poco, però ancora vivo tempo, capito? Deve fare il suo corso. Vi devi alzare, ma sono con tanto dolore, non riusciamo anche a guidare su questa piazza di segno, una macchina. Mi fa chiamare lungo, gatto, non ti dico niente, gatto. Lo braccio dritto, non lo potrei muovere. Alza, gira con il volante, non riesci a girarlo, come se secondo me, se lo lascio fermo magari abbassato, ma come interazzi mi fate vedere i celli, non riesci a guidare. E come va Gio Maria? Dolore al collo? No, l'ho marugato, però Maurizio le tendine è tagliato, ciò, capito? Ma mi do il burro l'altro, il sinistro. Cazzo, basta un dritto, allora mi do il burro sinistro, il braccio, lo tendine. Mi do l'ora di so quanti di dinaggio, Mari, capirassi i denti. Ma infatti io, magari quando ho preso la pastiglia è più leggero il dolore, capito? Magari fa meno male, riesco a poco a poco a sollevarlo, ma a ridotto non ha giubilato, ma i soldi mi rubila, chi come te fossi? Se non riesci mai a capire un microfono, a vedere a mirare la bocca, devo bilare solo a sinistra, devo immaginare, cazzo, poi la notte non ne fa vedremo. Canotti, gatta, non ci fate dormire. Me lo posso immaginare, mi dai solo il telefono. Un attimino che tanta gente. Fai tranquillo, Gio Mario. Attento, sono lì. Ciao Bacchi, è arrivata gente a casa sua. Luca. Mi senti Bacchi? Perché ti ascolto. E tu bene mi ascolti a me. Come sempre, forte e chiaro. Quando un giocattolino. Ti ascolto tranquillamente, non c'è. Vabbè, siamo vicini, capito? Sì, aspetta. È da Solino? Ma chi? Quei giocattolini che vendono a quattro soldi una dozzina. Luca mi ha messo la frequenza e dunque maestro dice, con l'antenna esterna non va, invece sta andando. Ha voglia. Ti ascolto abbastanza bene. Segnala a fondo scala, vabbè, sono a due bassi. Bacchi! È quello. Bacchi! Avanti! Con quello sì! Con quello lì sono Gio Marino. Atta, va bene, allora. Ma quale serra sì? Va benissimo, ma chi? Lascia tutto così. Via, con l'esterna sono, Giammarì, con l'esterna. Ah, ma è vabbè, strano, eh. E noi siamo riusciti a farlo funzionare, boh. Così mi ha detto, Luca, se non siete riusciti a fare saturazione, ma io ascolto bene. Addirittura si è affacciato anche Marino. Avanti Marino, buonasera. Ma qua sta uscendo, ma chi? Quello là sta uscendo? Quei giocattolini di mezzogiorno. Va benissimo, abbastanza bene. Ok, continuate, sto parlando, già entra subito, va. Buonasera Giomaria, buonasera a tutti. Ti prendi da chi? Quei fogli te li ho preparati, noi, me li ha preparati Luca, ce li ho pronti. Già ci vediamo domani, io ringrazio anche Luca, va. Luca, un bacio in bocca a parte mia, va. Ok, ci vediamo dopo, va, riprendi, va chi? Dopo. Luca, avanti. Di che non gli accetta Luca faccio in bocca, anche di più accetta lui. Ce l'ascolti a Marina allora. Sì, ma Luca non io, non te li ho preparati i fogli, eh. Luca Flipper magari. Comunque a Marina lo ascolto forte e chiaro, non so se mi ascolta lui a me, buh. Ha chiuso che c'è gente. Già mi sta ascoltando, Bacchi, c'ho gente, capito? Cosa volevi, Bacchi? Stavo dicendo che ti ascolto. Ma mi ascolta, sì. Vai, parlaci tu. Marino, mi senti? Certo che ti ascolto, forte e chiaro, amico mio. Ehi, aspetta un attimino, Gio Mari. Io ti ascolto benissimo, Marino, benissimo. Sembri qua, in zona. Avanti, Gio Mari. Un attimino, Gio Mari, così io mi sposto due minuti. Dai, li prendo subito. Avanti, Gio Mari, scusa. Gio Mari, non lo senti a... Io lo sento benissimo. Sto usando quello che ci sa, quello di Bacchisio. Ah, cioè, stava parlando Bacchi. Gio Mari, lo senti, sì? Sì, che vi sente, a tutti, a Marino e a Bacchisio non lo so. Parlo fino avanti a Bacchisio. Avanti Bacchi, non lo sente Gio Maria? No, adesso non lo sento proprio, poco fa arrivava una bomba, adesso nulla, zero. No, Gio Maria non ti sente più, ha detto, buh. Vediamo un po', Marino. Marino ha chiuso Gio Maria, adesso manco Bacchisio ti ascolta, buh. Chi ti è andato? Luca. Ehi, a Gio Maria. Avete a me, sì? Ma no come prima, però, già ti ascolto ma più basso. Perché se lo Gogomino se non lo ascolto per niente. Né uno con l'altro. Ah, Gogomino c'è Gio Mari. No, se riesci a sentire più mi dovrebbe sentire anche Bacchisio. A Bacchisio non lo sento. No, altro non ti ascolta. Però un po', Bacchisio. No, non ti sente Gio Mari, non ti sente. Bacchi, prova a chiamarlo tu, vediamo se ti ascolta lui. Adesso lo sto chiamando col gommino. Questo col gommino, mi ascolta Gio Mari. Mi sa che sto facendo delle prove Gio Mia, però io non lo sentivo. Lo sentivo più forte prima. Ma c'è l'altro adesso, dai. Ma c'è sempre qualcosa che non va, capito? È stato sempre giù questo apparecchio. A Bacchisio poc'anzi lo sentivo perfettamente. Avanti Bacchi. Sì, adesso ti ascolto perfettamente, anche poco fa, ma poi si è sparito, niente, neanche le luci si accendevano. Perché mi sono spostato. Dalla sala mi sono spostato a parte dietro, capito? Infatti l'ho spento adesso perché non ti sentivo, sentivo lo scatto però dopo spariva la voce, mentre a Luca e a Marino mi sentivo perfettamente. Marino sembrava sotto casa, Marino perfetto oggi. Ma infatti anche io lo sento bello forte, ma non c'è ancora, ho andato se ne, Marì. C'è gente Gio Marì. Ah. Ma comunque sei arrivato, vabbè che io sto usando l'esterno adesso, Adesso metto l'antenino che a vedere un po' se ti sento con l'antenino. Proviamo. Ecco, adesso sono con l'antenino, Bacchi. Ti ascolto bene come poco fa. Ma è con un'altra apparecchia adesso. Ah, se voglio provare di intorno a vedere un po' la questione, un attimino che ti chiamo, Gio Marino. Bacchisio. No, con questo non ti sento, Bacchisio. Ora. con questo teatro di senso, ma quello è portatile, no, no. Macello, non lo so perché, però con l'antenino suo non ti sento. Aspetta che provo con l'antenino suo, vedi se mi senti. Luca. Comunque adesso tu vai bene, macchina. Ho visto che io ti ricevo perfettamente, va benissimo, anche con la con l'antennino, eh. Adesso lo stai uscendo, Mi ascolti Gianmarì. Attento Gianmaria. Dimmi Bacchi. Se mi ascolti col gommino adesso. Col gommino non esce. Solo col gommino, sto parlando col gommino. Allora va bene, cazzo. Aspetta che provo io con gommino, sei con gommino, con quello se ti sento. Un attimo, Parla Bacchi. Bacchi, zio. Bacchi, zio. Io dimmi, Giovanni, vai. Bacchi. Non mi ascolti? Non ti sento, Bacchi, Guarda adesso se mi ascolti. Aspetta che mi accenno. Sì, Giovanni. Bacchi col gommino non ti sento, assolutamente, niente a fare. Attento, Giovania. Dimmi, Bacchi. Ma mi ascolti adesso? Non ti sentono, Bacchi, col gommino mio non ti sento, Non ti gommino, ma sono alla parte dietro, forse è per quello, Bacchi. Ok, adesso con l'antenna esterna, guarda un po'. Oh, passaggio. 1, 2, 3, vai. Non c'è segnale però, Ma poca roba, tutto scarica, sì. Questo è il fratello di quello là. Adesso sei uscito bene. Allora il PL mio che sta andando, adesso lo controllo. Il PL che sta andando male, Gianmarì. Allora controlla Bacchi. Vai, faccio pure X, controllo con lui poi già rientro. Dai, acceso qua, chiama quando rientro. Sono qua. Buonasera signor Gianmaria. Buonasera signor Tore. Buonasera signor Bacchi. Bene mi accoppi. No, che sono rientrato 5 minuti fa ad accompagnare la mia nipote. Ok, no, io sto facendo per X, voglio controllare il PL, perché a momenti esco, a momenti no. Allora, fai, già sono qua. C'è Gianmaria? Non sei uscito. Ho detto che c'è Gianmaria. Sono uscito tu. Adesso sì, però a momenti esci male. Ti ho detto il PL, adesso lo controllo. C'è Gianmaria, ti ho detto. Sei a Gianmaria. Ah, mi senti? Sì, io ti sento. Anch'io ti sento, è solo con quello che è preciso di Bacchiglio, Con quello lì, con quell'attimo piccolino. Oh. Va bene la radio? Sì, Bacchiglio pure sta uscendo. Che bene, però con lo copino non lo sento. Ci deve avere qualche problema al PL. Può essere anche. Io ti sento benissimo, Anche favoloso, Eglia. E ma c'è un altro là che è interessante, questa è stata con il mano, come si chiama. Aspetta. Io sono qua. Eccoci qua, Tom. Io sono qua, sì. Ce l'ho rimesso a posto, quello lì. Questi vanno bene questi qua, dai. Sono più forti? Cazzo. Sono giocattolini quelle là, Poi con certi apparecchi li senti, certi apparecchi non li senti. Una volta era in macchina Giulio, con questo qua preciso. Tutto sassari, non lo sentivo perfettamente, in macchina. Invece, a chiglio. Si sta mettendo a posto il PL, si sta mettendo a posto. Primo, con l'antenna esterna. Allora, non lo so, no? Aspettiamo a vedere quando metti a posto. Dai, Ah, oh, questo è tutta un'altra cosa, dai, quell'antennino, questo va bene, è un mambo, cazzo. Sento, cazzo, e sento a tutti con questo antennino. Andiamo a vedere, ma quello che hai fatto tu, eh? E allora, cazzo, uno di stazionari, cazzo, cosa vuoi di più? Va bene, tu, è un bombo. Perché sei in un punto buono, sì, ecco cosa è. Non come te me, che sono in basso. Se questo antennino lo dovresti mettere su, sulla ringhiera fuori, arriva dappertutto. Andava allora, già va bene così, questi qua funzionano anche così. So che secondo come sei messo, non anda. E infatti, l'altro abbiamo provato con Luca stasera, Luca il suo, io col mio, io sentivo bene, sentivo bene anche a me lui, capito? Ma se Marino può cazzare con quello preciso, ma beh, era con l'antenna esterna, forse per quello che arrivava fortissimo, però ho provato con l'antenna esterna, questo non esce, boh. No. Allora, non lo faccio. Infatti, cazzo, abbiamo provato con Luca, non va con l'antenna esterna, boh, è mio, ma chi si dice che era con l'antenna esterna, poc'anzi, lo sentivo benissimo. Vuol dire, si sta mettendo a posto il piede, sta mettendo, c'ha problemi con il piede, come lo mette a posto, già lo sentiamo bene dopo. Speriamo bene allora che lo sentiamo bene, là. Se mette a posto il piede già lo sentiremo allora, più bene pure, perché poc'anzi avevo provato anche con l'antenna esterna, mi sono messo anche in facciata e non lo sentivo. Beh, ti puoi immaginare, Luca sentivo perfettamente, a lui no, lui mi sentiva ma io non sentivo a lui. vabbè. Sarà così, sarà. Lui deve essere che... Ma... Luca Flipper. Come? Luca Flipper. No, con Luca Flipper ci sentivamo perfettamente, capito? Io ero con Gombino, adesso Luca lo so, penso era anche Luca con Gombino. Luca lo sento perfettamente, ma Bacchisi o no? Perché Luca è molto in alto, ecco cosa è. Cioè Bacchisio rimane un po' in basso e coperto un po' anche. Può essere anche quello, Può essere anche quello. Poc'anzi ho Gomino mi ha sentito Marino, ti puoi immaginare, che è mica lontano Marino. Eppure quel apparecchietto mi ha sentito poc'anzi. Però dopo è sparito. Infatti è così, Boh. Non saccio, tutto dipende da questa cosa, boh. Per carità. Gigi, cazzo, a Gigi. Sto buonino, magari, se non ci sono ostacoli, magari l'apparecchio va, Ma sempre, ma si tocca per ostacolo, non passa, assolutamente, adesso una ragione. Infatti, secondo, da come sono io qua, perché secondo come metti no anda. Vedo un po'. Quel tipo, infatti, noi abbiamo fatto le prove l'altra volta con Luca e con Giulio, e l'apparecchio, o lo sentiva a me lui, o lo sentiva a lui. E magari lui mi sentiva e io lo sentivo a lui, oppure viceversa. Allora dimmi tu. Magari io se ero stato al terzo piano forse mi avresti sentito più bene da dentro la camera. Può anche darsi. Si possono sempre fare queste prove, dai. Si possono sempre fare quando vogliamo. Sì, e con chi sai, già sto uscendo bene così. Tu va, Dosetto, ciao, buonasera. Buonasera, me un altro. Avanti, Antonello. Mi hai detto di entrare ieri, non entri mai, mi hai detto. Menti. Ieri mi ha detto, entra che non entri mai. Vabbè, avanza, entra. Ma è teso Gio Marì? Ma fatti sorgio, è troppo forte però, Il bocchito, è troppo forte, ma basta per appena. Cosa ti posso fare? L'affare che ho io è quello, lo Iaesu, l'8757, dimmi, cosa faccio? Lo distruggo. Buonissimo con la radio. Bella, chiara, forte pure. Anche l'antenna è quello che decide, non è solo l'apparato. Ricordati bene, l'apparato non c'entra nulla, è l'antenna quella che... Se non c'è l'antenna buona, l'apparato è inutile che ce l'hai. Il discorso è quello. La direttiva che ho io è una bomba, hai capito? Funziona benissimo e non ha nessun problema. Sento che va bene, okay, va bene. Io sono Terno, Ciao bello, chi mi ha salutato avanti? Ma è stato qualcuno che si fa muoversi da te, ma comunque, saluto neanche che sta ascoltando. Non l'ho manco riconosciuto. Salutiamo Gio Marì. Ho detto che io sono l'antennino interno. Io c'ho l'antenna puntata invece a Badi Urbana, figurati tu. Non la posso neanche muovere momentaneamente perché c'è tutto questo vento che se sta con soffaltetto ci scendo giù, come minimo mi trovo al piano di sotto. Stasera, stamattina era calmo, ma stasera proprio ho visto ballare il palo, i cavi mezzo mollati, adesso aspetto che cambino le cose, poi salgo e sistemo tutto. Eia, Tore! Eia Gianmarì, dimmi. Atta! Più forte Antonello, come radio più forte Antonello, vabbè, poi c'è anche il timbro della voce anche. È più forte come radio però, come segnali no, ma come radio è più forte Antonello, Sì, Gianni Greu, che è più forte lui, poi con l'apparecchietto pure, quello lì, manda. Quello è... E poi in alto anche lui, molto in alto, per cui non ci sono ostacoli, Anche quello vuol dire che non ci sono ostacoli. Vuol dire molto, specialmente per questa frequenza, per quella frequenza malorda. Anzi, dico che sta uscendo veramente bene. Vuol dire molto quello, quando si è in alto così, vero Antonè? Sì, quello sì. Stranamente ho azzeccato la posizione dell'antenna, magari mi fa riflesso qualcosa, cosa ne so. Però sta uscendo pulito. Se tu vieni sotto casa mia è puntata a cosa? A ripetitori di intili, infatti a Badi Urbana. Non è puntata come la prima a Monte Oro. Quindi puntata lì evidentemente c'è qualche riflesso, cosa ne so. Esco più forte io di lui però, Nella forte luce. Hai visto, io volevo andare la puntata a coso. Buonasera, ciao Tore, ciao Pompugno. Ciao Luca, ben entrato, da voi di tanto che ti intendo. Siamo mai nessuno, Luca sempre dice a me, non ci risponde nessuno. Allora così stasera, adesso lo facendo, vediamo un po' chi c'è. E c'è la Gio Maria e Luca, allora adesso entro. Se no non c'è mai nessuno, cosa lo tengo a fare su? Guarda che noi c'eravamo anche ieri sera, c'era Antonello ieri sera, c'eravamo sabato. Ieri sera non c'ero, allora sono andato alla pentolaccia. Sabato, ieri era domenica, giusto? E sabato mi sono addormentato presto. Cavallo dirà la Alpina, No, è giù Gio Marì, giù in fondo. Ho scavato troppo, messo solo sangue e basta. Cacca! Ma sarà il tira di Canariccio, no? A caso. No, di Ru, Ruffi. Di Ru, eppure, cazzo, la butta, si è tagliata la butta da letto. È male ai sinistra. Se rimette Mercurio Cromo, esce da solo. Guarda, no, ma rimette solamente Mercurio Cromo sopra. Cosa devo fare? Compri il mercurio cromo e glielo metti sopra, cioè, e lui in automatico prende sale, perché tu è come il vetro, più lo tocchi più scende, quindi a un certo punto se gli metti il mercurio cromo piano piano si gonfia per appena e la spina esce fuori solo a solo esce. Vabbè, qualcuno me la sono levata io con un ago, si vedeva al puntino nero, adesso vediamo, lo lascio così. Se li vuoi uscire invece, se no, si è infattato il tutto, però non li vuoi uscire. E vabbè, avanti, riprendi tu. L'ultimo di quello che ho mai fatto il bini, te lo sto dicendo io, sopra il buco che ho fatto, li lo metti sopra e la spina piano piano esce fuori. Perché se lo avessi, avessi macchina all'interno, ti provoca il pus, capito? E quindi in quel caso lì, il mercurio ti aiuta a sollevare quello che, ciò che è rimasto lì all'interno. È come se tu per dire che entra verso l'erede, come prende e cammina, la stessa cosa. Se li metti il mercurio invece piano piano esce pure da solo, senza toccare di nulla. Ti farà male, ma perché brucia un bel, la verità. Però me lo esce. Ehi, fallo così, dai. Se no rimango un poco di vino in ruglio, te lo mattessi. E so sai come facevano le cose gli americani, un po' di whisky per togliere le pallottole. Prima ti beccavano e poi ti bucavano il dito. E lui aveva detto. Sì, andavo, ho letto il messaggio di Luca, vocale. Ma ti ha fatto proposte amorose? Cosa ti ha fatto? Proposte amorose? Oh, mi ha detto dell'antenna di Antonello, mi stava dicendo, che arriva fortissimo, e ecco, le direttive già rugrio che sono folli. Lo so, ma da me lascio così e bue, sennò se andano io non andano in pazienza. Guarda che io ce l'ho puntata a cosa, mi ha mandato un balano per sbaglio. Se tu vieni, vieni qua sotto casa te la guardi, cosa sto dicendo? Cioè il motore è bloccato perché si è spaccata il cilindro che va lì all'interno del meccanismo, e quindi è in pratica è attaccato, come si chiama, al tirante, quindi figurati tu. E non posso neanche toccarlo adesso perché se salgo sopra ci scendo giù, quindi a un certo punto non la neanche la tocco. La faccio così come. Dato che esco molto meglio puntato lì, la lascio lì, cosa vuol dire che la mia, lo sai che la 12 elementi va fino a fa la 140 a 570 mega, ecco quella che c'ho lì. Abbetto! Un attimo, stavo leggendo il messaggio di Luca. Stavo leggendo, aspetta che glielo rimando. Vai, fai attore. Attore l'ha sentato. Luca. Giù che giù, giù che giù. Ma io bene, ti arrivo attore a te. 9:20. Aspetta. Ah, va bene allora, Santenino, Grazie. Oh, dentro casa, certo, ti ascolta tutti, è strano. Quindi. Un pezzo di filo. Io non passo, no? Ci ha dato un PL. Sono in ascolto, solo. Ehi, vabbè. Dicendo che arrivi bene, Giomai. Sei perfetto. Però devo dire, non ti posso dire ballare. Io ho tolto la X200, sto usando la direttiva e a posto della X300 ho messo la discona. Che fa la cioè fino a 1300 addirittura, figurati tu. Ehi, con la telestella è tutta un'altra cosa. E dove si mette sul tetto questa qua, questa piccolina, caspita, andrebbe molto più bene, ma cazzo, va bene qua, cazzo. Oh, io ti sento perfetto, è bella forte la radio, ma bella forte, è chiara, pulita, un bombo. Sono contento, meglio così. Io la dico, ce l'ho bassa, adesso quando si calma, arriva aprile, cosa del genere, per dire che cambiano le cose, la discola la metto in alto e piazza anche la X300, a parte la direttiva, mi compro il motore. Almeno sono stati tranquillo. Gli metto come si chiama, non è che a posto di mettere in verticale la metto orizzontale. Voglio provare a ver se sento la corsi, che cosa del genere. Ehi, aspetta, vediamo un po' se Macchisio ha messo a posto il PL. Macchisio! ancora stava mettendo a posto il PL, c'aveva il PL che non funzionava. Ma vai bene Antone, va bene. Senta, oggi ti ascolto veramente bene, ma bene. Oh, anche ieri, anche ieri ti ascoltavo. Va benissimo adesso, dai. Evidentemente hai trovato il punto giusto, l'hai messo a posto quell'antenna, va bene. Ma stai simpatico, guardatela. Cosa vuoi dire che? Tu ci credimi. Guarda dove è puntata. Che poi c'è no balle. Ehi, ehi, va bene, va bene, va bene. Va benissimo. Già beso a poco intanto, io, cioè, quella che ti faccio io. Tutto in acciaio, Emi. Quando l'ho piazzata pesava 3 kg di qualche cosa. Non era male il motore, ce la faceva perché il motore di parabola da 1,20 m. E se l'avevo girata domani. Un attimo, il telefono, Antone. Va bene, va bene. Ciuccio. Ebbè, ma chi? Giovanna, buonasera. Oh, Mario, buonasera. Mi sono liberato adesso, in questo momento. Buonasera anche Antonello, non so se le Bacchisi l'è entrato. Bacchisio? Bacchisio stava mettendo a posto il PL, che non stava funzionando bene, e non so se ha finito, Mario. E adesso appena termina già entra, va, benissimo. Antonello, avanti, buonasera. Ciao Mario, buonasera. Ben scucito, tutto a posto. Cava cava. Tutto ok, c'avevo gente, poi stavo girando e ti ho sentito su, ti ho sentito poc'anzi in vado a alterare. Tutto bene, sto bene, avanti. Stavo chiedendo quella storia a cosa, Marco, capito? Adesso poi devo cercare, se riesco a trovarlo, il libretto di quella roba che c'hai tu, capito? In modo da fare le commutazioni, da quello che c'hai a un microfono Salerita o MP4, quello che è, in modo che potrei utilizzare un microfono amplificato senza stare attaccato al tram, capito? Adesso vedo un po'. Devo ricordare dove l'ho messo quel libretto, perché ce l'avevo, l'avevo conservato. Ma poi me la metto in garage bus, l'ho messo dentro un coso, in garage, quindi dovrei avercelo. Appena lo trovo, ti faccio le combinazioni e ti faccio l'adattatore, così usi un microfono qualsiasi, capito? Ho capretto, e già ti stavo ascoltando, poi c'era gente, non potevo entrare, tutto qua. Bene, Mela, noi ci vediamo una settimana. Vediamo se il signor Bacchisio è entrato. Signor Bacchisio? Bacchisio, ancora nulla. Tore? Attenzione, Scuoletto. Scuoletto sicuramente si è allontanato per la 50. Avanti, Giovanni. Tutti morti. Graziano, non si sento per niente stasera. No, Graziano è ricoverato. Non sta molto bene, Antonello. Non sta molto bene. Con la febbre l'ha gabbato, ha avuto la febbre 3 giorni e l'ha buttato molto giù, l'ha buttato. No, mi ha detto ieri sera che c'era questa baracchina, portatele. Quindi vuol dire già, ho visto su Facebook che sta entrando, quindi evidentemente ha migliorato. Vedi così, magari si sta svagando un pochino, già lo sai, quando sei ricoverato ti gira la testa, meglio fare qualcosa, se no ti passa la giornata. Speriamo bene, dai, Gio Maria sa qualcosa, avanti Gio Maria. Gio Maria è allontanato. Avanti Antone. Figlia cappa. Quando sei in ospedale purtroppo mio. Oh, ti allego il televisore vizzino, dall'aggancio alla spina che c'è sopra, un televisore di quelli piccolini, mi. No, di quelli di 14 pollici, di quelli piccolini. Te lo metti vicino, te lo ascolti con le cuffie e va a far culo a un certo punto. E poi magari gli metti un CD, li puoi mettere, ti ascolti anche il CD, o ti guardi un video, per dire, un DVD, costa mi sembra intorno ai 150-200 euro costa adesso. Come sempre comprarlo? Una cosa del genere, poi quando vai in ospedale cosa fai? O ti gratti, o devi stare tutta la sera a casa aspettando che ti parenti, mamma mia, ti viene un coso ti viene, non è che possiamo venire i parenti per tutti i giorni venire a trovarti, non fa, capito? Basta che vengano a portarti il ricambio di ciò che ti serve, e passi un'ora e mezzo che poi passa veloce, figurati, a parte lo passi, ma te in bagno, e quando ti danno quel pollo, con la minestrina, stai mezz'ora dentro al bagno, e devi eliminare tutte le tossine. Oh, sono rientrato. Senta me, mi devo spostare, era la gente. Ci sentiamo più tardi, dai. D'accordo, ok, Mari. Avanti, Sabato. Sì, stavo parlando con Luca, Andate. Oh, signor Gio Maria. Sala, benvenuto. Ero va vedendo con Luca, ero va vedendo. Ma che è Luca? Vabbè, uno è Noghe, l'altro è Casa Giulia. Ma io Luca ne conosco due, Montanaro e Latte Dolce. Senta Latte Dolce. Andiamo a vedere. Che va a dire sì per Luca Dalvale. Devi specificare, Luca ce ne sono due. Luca Frippero e Luca Montanaro, qual era? con Luca Frippero. Ah, ecco qua. Conversazione buona. Se la deve la mandare bene, Mito, non vi è un problema, ma lui, allora si manda sempre bene. Sì, è così. E allora, quello che conta, avanti, ciucu ciucu. Salutami Luca Frippero, io non ho più sentito la verità. So che fine abbia fatto, boh. Vabbè, io non sto neanche entrando su internet, perché in pratica guardo, ma non faccio nessun passaggio, né in messaggio, tanto meno in corso. Quindi guardo solo quello che fanno, hai capito? Ho deciso così perché in caso non è che uno mi può mandare per dire gente che taglia la cosa segreta o col coltello, cazzo, fino a vai, oppure si batte il forno, no, basta. Ho eliminato tutto, ho dato un messaggio strano, va. L'amicizia è bella così, io guardo ciò che scrivono e basta. Se è una giovana attacco il computer e rispondo, se no pazienza, il computer rimane qui buttato a casa, tanto non lo sta più usando. Il notebook è una parte in chili. Però sì, invece che lo usa così nel computer, altro che... Cioè, andare su Facebook così, ma per carità. C'è troppa gente che si fa le fotografie, chi è a Portabona, chi è a Trentino, chi si mangia la pizza, chi si sta mangiando la facciatura del coso. L'altro se ne va a casa la notte per dire nei night, dice che non è alcolizzato e va nei night e si beve la birra, cazzo, e la prima che incontra, cazzo, se ne si fa le fotografie. No, io sto usando per altre cose diverse, le uso per altre cose diverse. Andate, aspetta, è rientrato San Bacchisio. Signor Bacchisio! Ancora quel piede attaccato, Cazzo, non sarete a posto, tanto io chiudo che devo fare una cosetta, dai. A domani c'è il consiglio a tutti. Saluta Bacchisio, se rientra. Ciao Antonio, anche a te riprendi. Io chiudo, dai, a domani. E io, ciao Giovanni, ci sentiamo alle prossime, stavi bene, buon tutto. Matito. Ciao Gianmarì, ci sentiamo. Ma Marino c'era. Eia. Attenzione Marino, si è asserrato. Anda bene. Era. Attento signor Tore. Da su, più che altro che lui è giù. Attento signor Tore. Che casa, meno male. A me non adesso funziona. Meglio così. Meglio così. Ah, non manco così. Sei più tranquillo, arrivi bene. Ma mi ascolti dove? Antenna, la smonta, cazzo, la riempie di vernice acrilica, cazzo, togliela là. Capito, uno va a piazzarla, vengo tranquillo, convinto, cazzo, l'antenna funziona. Non c'era né massa, non c'era un cazzo, in teoria. Allora ho preso la mola, gli ho bigliato, ho tolto tutta la vernice da sotto. L'ho portata quasi a zero. Adesso me lo funziona. A parte già lo sai con l'antenna lì, c'ha le borchie, i radiali. A un certo punto ha detto, questa l'ha presa per il culo. C'era verniciata, la vernice non fa massa, non fa. ma la vernice acrilica, la vernice acrilica non fa massa, no, ma se tu passi la vernice normale, fa massa. Quella ruvida, quella che si usa, di solito che usano le, cioè le, quelle che la costruiscono, è una vernice che in pratica conduce, hai capito? Stai uscendo, però ti stai portando un fischio dietro. Becchi. Adesso. Sì. Stai uscendo adesso. Adesso sei uscito bene senza nulla. Bene, bene. Sicuro? Sì. Avassi. È Antonello. Buonasera Antonello, mi ascolti? Sì, ti ascolto, Becchi, dimmi. Dimmi tutto. Aspetta, non mi ascolta. Perché ti sta ascoltando lui? Non lo sto ascoltando, però. Ieri sera mi sentiva benissimo, strano. Ma chi? Certo. Non mi ascolta, no. Io non ascolto a lui. Ma lui sì, ha detto che ti ascolta lui. Io non lo ricevo. O il malanno c'è, non lo so. Non lo so. Antonei, prova a parlargli a vedere. Ieri sera lo sentivo io basso di radio, ma il segnale c'era. Oggi invece il segnale è forte del radio, ma il segnale non c'è, cioè in pratica è il contrario. Oggi non mi sento manco a me, evidentemente è in posizione voi siete sopra l'antenna, ne è sceso tutto, cosa ne so. Sei copiato, Becchi? No, non so se sono fuori frequenza, adesso cerco di trovare. Ma a me stai arrivando bene del radio e tutto, sei a fondo scala. Devo sapere la frequenza. Forse ho spostato. Sì, attacca l'antenna esterna. E chi? Attacca l'antenna esterna. Aspetta che sono andato a fare la pupù, arrivo subito. Sì, sono qua. Stai uscendo tutto a fischi, Becchi. Stai uscendo male. Ciucucù, ciucucù. Sono rientrato. Sì, siamo in oggi. Meglio così. Anda bene mela, cavolo. Chi c'è rimasto? Noi due e basta. Tutti gli altri sono tutti in ascolto. Ma chi si è sempre su fuori frequenza? No, mi ascolti adesso. A voglia, è benissimo. Mi cammino adesso solo. Come mai quello là fuori frequenza l'hai messo? Adesso riprovo a vedere un po'. Vabbè, ascoltato lei a Becchisio. Prova Becchi, non arriva nulla adesso. Neanche noi fa vedere. Ah, ecco. Becchi, rivedi le cose come ieri sera, che uscivi bene quando hai parlato con me. Sei fuori frequenza, Becchi. Parito. No, sta provando a trovare la frequenza giusta in quell'altro PMR. 8125. C'ho io qua un coso, un portatile. L'eccezione ce la bassa come audio. La trasmissione la bomba, cara. L'ho provato l'altro giorno. Da 15 watt da riuscita. Ma è un siluro, uno standard, Il PMR esce benissimo. Anche nell'EPD. Il problema è solamente l'audio ricezione. Che è basso. In cui si sente basso, deve avere qualche falso contatto senz'altro. Però in trasmissione esce bene. Oh, meglio così. No, deve essere quelli senza coso devono essere. Senza numeri. Ho capito. Va bene. Signor Becchi. Io mi telefono a cosa? Telefono a Giovanni La Freccia. Quattro di quei lavandini sulla 27. Se riescono a farli funzionare. Ho capito, no. Gli dai il PMR per che cosa? Lavandini che c'ha lui. La parte del 27 che a parte sono inutili, già lo sai. Sole. Ehi, Becchi, già stai uscendo bene. Adesso. Sì, adesso sì. Con l'antenna esterna ho detto di no questo. Uno funziona, uno no. No, quelli neri stai dicendo. Dove? Uno funziona con l'antenna esterna e uno no. Non sono tutti che funzionano con l'antenna esterna. Quello che ho io invece non funziona con l'antenna esterna. Ho parlato con Gio Maria stasera, con l'altro. Questo nada di nada, ne riceve e ne trasmette. Ah, questo sta uscendo benissimo. E cammino adesso. Vabbè dai, mi so ciamendi, già a mimura che mi ciamendi. Dai, ci sentiamo domani, Bacchi. Ciao Antonello, a domani. Ok. Ciao Bacchi. Ciao, c'è anche io che mi passo i correnti perché devo prendere le medicine. Ciao Antonello, se mi ascolti. A domani tutto. Ciao, poi ci sentiamo domani. Ma che se lo sento molto ma molto basso, ma con il tetto più va. Sì, ti ho salutato. Ok, ti saluto io a parte sua. Ok, ciao Antonè. E ciao, a domani, vi sentiamo domani.